Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sono tre le persone sospettate per l'omicidio di Yara a Brembate, un paese chiuso nel silenzio. Fini, non ci saranno ribaltoni, ma qualcuno ha pensato agli affari suoi. La classifica sulla qualità della vita del sole 24 ore, Bolzano e Trento unite in vetta, giù Roma e Milano, all'ultimo posto Napoli con la sua emergenza rifiuti. Ancora un Natale di crisi, italiani prudenti negli acquisti dei regali, ma non rinunciano all'ultimo giochetto tecnologico. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Fra poco l'avete sentito alla pagina politica con le ultime dichiarazioni questa mattina del presidente della Camera Fini. Prima però andiamo a Brembate Sopra, torniamo a Brembate Sopra nel Bergamasco. Sono ferme questa mattina le ricerche di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre. I soccorritori restano in attesa di eventuali indicazioni dei carabinieri che coordinano le indagini. Ieri la svolta, come sapete, con l'arresto di Mohamed Fikri, un operaio edile marocchino di 22 anni che però si dice innocente, e tale si era detto anche nell'intercettazione che ha portato al suo fermo. Secondo indiscrezioni di stampa, ora gli inquirenti cercano due complici italiani. Sulla vicenda e sulla condizione degli operai stranieri, Paolo Piacenza ha sentito Gabriele Mazzoleni, segretario degli edili Filcacisl, che abita a 2 chilometri da Brembate. Ho due figli che vanno in piscina proprio lì nel centro sportivo e francamente mi viene la pelle d'oca, anche perché io, voglio dire, sono nato in quelle zone, le ho sempre reputate zone ad altezza d'uomo, no? Io le ho definite un po' così, però è difficile, guardi, dare un giudizio, perché poi, voglio dire, se parliamo del mondo degli immigrati, voglio dire, non farei tutte queste discriminazioni, no? Così come i cartelli che ha messo fuori a Brembate, occhio però che entra dentro o via gli immigrati, credo che sia la soluzione più sbagliata. Dobbiamo impegnarci tutti di più per una maggiore integrazione, perché, voglio dire, i posti di lavoro, sia in edilizia che nei meccanici, hanno e avranno sempre più bisogno comunque di manodopera di immigrati. Il giovane oggi italiano non è più interessato a questo tipo di lavoro. Dov'è che si pesca? Si pesca naturalmente in quelle povere persone che arrivano da paesi poveri e vengono, tra virgolette, anche sfruttate. Poi ripeto, lascio sempre comunque il lavoro più importante alla magistratura, perché è vero che se uno commette un reato, così come in questo caso, voglio dire, io la lascerei in galera all'ergastolo. E saluto qui accanto a me Alberto Pellai, lo conoscete molto bene, lo sentite il sabato in Questa Casa Non È Un Albergo e anche in Essere Benessere, come è successo peraltro questa mattina. Buongiorno Alberto. Ciao Maria Chiara. Allora, parlare di psicosi sicuramente è troppo, però insomma dopo Vetrana e dopo Brembate i genitori si stanno facendo più prudenti, per non parlare poi dei nonni, e questo forse è naturale. Insomma, fuori dalle scuole ricompaiono i genitori a prendere i figli, la reazione forse può essere naturale, probabilmente fra qualche giorno passerà tutto come tutti i fenomeni di questo genere, ma secondo te sarebbe giusto scortare ragazzi e ragazze soprattutto di 13-14 anni per paura che possa accadere loro qualcosa? No, assolutamente no, perché noi costruiamo un modello comportamentale basato sulla paura partendo da singoli eventi che realmente sono molto rari, ma che dentro i media occupano ore e ore e ore di comunicazione, per cui diventano il 100% per alcuni di noi molto sensibili delle informazioni che ci arrivano, per cui una mamma che ascolta ore e ore di discussione nei media relativi a un singolo caso fa diventare quel caso una realtà conclamata che quasi entra al 100% nella sua comunità. Su questo si mette in relazione con un figlio e gli trasmette tra l'altro l'immagine di un mondo invaso da eventi terribili, e questo fa molto male ai figli, fa molto male ai bambini, fa molto male ai preadolescenti. Ecco, infatti volevo chiederti anche questo: come bisogna spiegare ai nostri figli, soprattutto alle nostre figlie, fenomeni di questo genere? Allora, questo genere di violenze e abusi sessuali sono una piccolissima parte di un mondo invece ben più ampio e sommerso che avviene ad opera non di stranieri o sconosciuti, ma di persone conosciute. Perciò bisogna aiutare i nostri figli ad avere il più possibile attenzione e comunicazione nella relazione con gli adulti di cui si fidano, segnalare ogni evento che li fa sentire a disagio a mamma e papà, soprattutto imparare a parlare di sessualità, perché molte volte questo genere di fenomeni si succede laddove con i figli nessuno ha mai parlato di sessualità e spesso gli adulti, quelli più pericolosi, possono uncinare un ragazzo o una ragazza proprio intorno alla sua eccitazione e curiosità e conseguentemente fare poi danni molto seri. Grazie, grazie mille ad Alberto Pellai. Noi andiamo ad un altro fatto di cronaca molto grave. Domani forse i funerali dei 7 ciclisti travolti ieri a Lamezia Terme. Questa volta alla guida c'era un ragazzo marocchino. Un caso, perché gli incidenti stradali in cui la peggio ce l'hanno i ciclisti non sono all'ordine del giorno, ma quasi. E al volante ci può essere chiunque. Lo ripetono gli amici riuniti davanti all'ospedale di Lamezia Terme. Era destino che dovesse succedere, sussurrano, perché la maggior parte degli automobilisti non ci rispetta, non capiscono cosa significhi andare in bicicletta. Poi raccontano cosa è successo un anno fa a Pizzo Calabro, un altro gruppo di patiti della bici, di quelli che si ritrova ogni settimana. Erano in fila indiana, un automobilista li ha stretti e li ha buttati fuori strada. In quel caso solo leggere contusioni, ma è stato appunto un caso. Nel 2009 gli incidenti in cui sono stati coinvolti i ciclisti sono stati 15.000, oltre 14.000 i feriti e poco meno di 300 i morti. Una realtà amara perché in Italia in 32 milioni possiedono una bicicletta, eppure le politiche sostegno degli spostamenti in bici si perdono nei meandri del tempo, a cominciare dai soldi spesi, 5 milioni di euro negli ultimi 3 anni da noi, 80 milioni di euro solo nel 2009 in Germania. Per non dire che nella Repubblica Federale Tedesca le piste ciclabili sono 40.000 chilometri, da noi poco più di 3.000 chilometri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ubriachi al volante, lavori socialmente utili al posto delle sanzioni penali. È giusto, vi abbiamo chiesto oggi nel nostro sondaggio. Il 63% di voi ha risposto di sì, il 37% no. Ed ora la pagina politica, che apriamo in realtà con una notizia di giudiziaria. 10 misure cautelari, di cui 4 in carcere, sono state emesse dalla procura di Larino nell'ambito di un'inchiesta sullo smaltimento di rifiuti. Fra i 18 indagati c'è anche il presidente della regione Molise, Michele Iorio. Ed ora la situazione nella maggioranza, ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Dopo le accuse di Silvio Berlusconi nel weekend, la parola passa a Gianfranco Fini. Oggi lunedì non ci sarà un ribaltone perché è un sovvertimento della volontà popolare. Se qualcuno fosse più umile e pensasse di aver torto lui, dice il Presidente della Camera, invece di invocare sempre il complotto, se dicesse che alcuni impegni non sono stati mantenuti, le cose sarebbero migliori. Il Presidente della Camera parla agli studenti del liceo romano Orazio, le accuse al Premier sono pesanti, la politica è innanzitutto onestà intellettuale e sulle leggi ad personam Fini risponde, mi guardo allo specchio e dico che c'è un limite oltre il quale non si può andare, pena la dignità. La replica del coordinatore del PDL Sandro Bondi, Fini è sconcertante e sfibra la democrazia. Per Federico Bricolo della Lega, Fini deve ammettere con onestà il ribaltone. E giovedì è prevista una riunione del gruppo di Future Libertà in vista del voto in Parlamento il 14 dicembre. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E approda oggi al Senato la manovra finanziaria. Ultime battute per la legge di stabilità a Palazzo Madama. Dopo aver ricevuto infatti il via libera della Commissione Bilancio, il testo è ora in aula. Governo e maggioranza puntano a chiudere l'ultimo passaggio parlamentare entro domani sera, al più tardi entro mercoledì. Si parte da 170 emendamenti che difficilmente però saranno approvati. Tra i nodi ancora da sciogliere vi sono il rifinanziamento fino a 400 milioni del 5 per 1000 e le richieste delle regioni e dei comuni su un allentamento del patto di stabilità. Temi questi che potrebbero slittare al decreto di fine anno, il cosiddetto mille proroghe, così come indica alcuni ordini del giorno già approvati. Sempre a livello di intenzioni si aspettano ulteriori impegni dall'esecutivo sulla stabilizzazione dell'eco bonus per le ristrutturazioni, sulle risorse per il mondo della cultura, sulla tracciabilità dei trasferimenti di denaro all'estero, sulla Tremonti Ter per detassare gli investimenti in macchinari. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È il ministro delle finanze tedesco Schäuble, il vincitore della classifica redatta dal Financial Times su migliori ministri europei dell'economia nel 2010. L'ultimo in classifica è l'irlandese Brian Lenihan, scottato dalla crisi che ha investito di recente l'ex Tigre Celtica. Giulio Tremonti si piazza al 14° posto su un totale di 19. Ci sarà un interlocutore importante oggi all'Eurogruppo e il Fondo Monetario Internazionale a chiedere l'aumento delle risorse a disposizione dell'Eurozona. Non è finita, è il momento di nuove decisioni e molti governi se ne rendono ormai conto. Questo pomeriggio si riuniscono i ministri dell'Eurogruppo e domani tocca all'Ecofin. Sul tavolo non c'è soltanto la formalizzazione dell'aiuto all'Irlanda, ma anche il rafforzamento della rete anticrisi. Intanto il consiglio del Fondo Monetario Internazionale: potenziate il meccanismo di stabilità, che oggi vale complessivamente 750 miliardi in garanzie per i prestiti ai paesi nei guai. Si parla addirittura di un raddoppio. E poi c'è la proposta di Giulio Tremonti e Jean-Claude Juncker, presidente Eurogruppo, di creare un'agenzia europea del debito per emettere euroobbligazioni fino al 40% dell'attuale debito pubblico, convertendo i titoli attualmente in circolazione. Sarebbe davvero una svolta epocale, ma c'è sempre la Germania, finora sempre contraria a ipotesi del genere. Antonio Pollio Salimbeni da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ci sono state anche alcune aziende italiane sotto la lente dell'intelligence USA, come rivela un articolo di Wikileaks. Un inventario di tutte le strutture all'estero considerate cruciali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e questa l'ultima rivelazione contenuta nel sito fondato da Assange. Un documento del febbraio 2009 del Dipartimento di Stato firmato da Hillary Clinton, in cui figurano siti che, se persi, potrebbero danneggiare in modo cruciale la salute pubblica, la sicurezza economica e la sicurezza nazionale del territorio americano. Tra questi anche siti italiani come la nota multinazionale farmaceutica Glaxo, la Digibin del gasdotto Transmed che trasporta gas dall'Algeria alla Valpadana. Dai documenti anche nuove rivelazioni su retroscena della politica italiana, come un giudizio sul ministro degli esteri Frattini, che avrebbe una forte reputazione internazionale e godrebbe del rispetto dell'opposizione di sinistra in Italia, mentre il premier Berlusconi avrebbe definito Putin come il centro del potere in Russia, mentre Medvedev sarebbe un mero apprendista del premier russo. E intanto l'amministrazione americana si prepara a trasferire il personale delle principali ambasciate USA nel mondo, compromesso dalla fuga di notizie su Wikileaks. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poco fa la nota di Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio Berlusconi non ha mai pronunciato le frasi sul presidente russo Medvedev che gli vengono attribuite dalle ultime rivelazioni di Wikileaks, né ha mai tracciato paragoni in pubblico o in privato fra il presidente Medvedev e il primo ministro Putin. In Pakistan questa mattina doppio attentato al confine con l'Afghanistan, oltre 50 i morti e 100 i feriti. Hanno fame, hanno sete, ma non chiedono solo da mangiare e da bere, chiedono anche di avere un nome. Parliamo dei bambini di Congo e Kenya. Parte oggi la campagna di AIBI, Amici dei Bambini, un SMS solidale per i bambini invisibili di Congo e Kenya, quelli, e sono centinaia, senza identità perché senza documenti. Un problema molto diffuso nelle aree più povere di questi paesi, come ci racconta Eddie Zamperlin, volontario italiano in Congo. Quando siamo entrati negli orfanotrofi in Congo, ci siamo accorti che i bambini, nessuno dei bambini che ci prendevamo in casa, era registrato e non aveva un'identità formale. Pertanto i bambini avevano cambiato qualche volta il nome cambiando istituto, non avevano una data di nascita, nessuna registrazione, lo Stato non conosceva l'esistenza di questi bambini. Ci sono poi anche tantissimi problemi che sono legati al traffico di questi bambini, perché persone particolarmente malvagie possono approfittare di questa situazione sia per un'adozione irregolare o ossia per il traffico di organi di questi bambini. Le famiglie non li registrano all'anagrafe per ignoranza e perché il costo in Congo supera i $400 se la registrazione avviene 3 mesi dopo la nascita, quando il budget medio familiare spesso non supera i $20 al mese. Per dare loro una mano, aiutandole nella spesa dei certificati, AIBI propone di inviare un SMS del valore di 2 euro al numero 45507. Una iniziativa valida fino al 26 dicembre. Cristina Ballotelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le notizie principali di cui abbiamo parlato nella prima parte di GR24: sono 3 le persone sospettate per l'omicidio di Yara Gambirasio, Brembate intanto un paese che chiede silenzio. La pagina politica con le dichiarazioni di Fini: non ci saranno ribaltoni, ma qualcuno ha pensato agli affari suoi. E ripartiamo dal rapporto sulla qualità della vita pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, come ormai è tradizione. Bolzano e Trento unite in vetta, così abbiamo titolato. Perdono quota invece le metropoli Roma e Milano. All'ultimo posto Napoli con la sua emergenza rifiuti. Abbiamo qui in studio Nino Ciravegna, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Nino. Buongiorno a tutti. E tu sei stato a Bolzano, la prima in classifica. Bolzano e Trento, in queste due città che sono vicine ma come tutti i parenti serpenti hanno anche piccole rivalità mai sopite e sono anche due modelli di sviluppo abbastanza diversi. Infatti tu hai titolato nel pezzo l'eterno duello sulla montagna della felicità. È casuale sì il fatto che siano entrambe in montagna? O porta fortuna? È casuale che siano entrambe in montagna, non è casuale il fatto che siano entrambe province con uno statuto autonomo che le permette di avere forti e ampi fondi per gestire un territorio che va detto e sono gestiti molto bene. Basta pensare che Bolzano ha a disposizione quasi 9.000 euro per ogni abitante, quindi può fare delle cose molto belle, mentre per esempio la Lombardia ne ha 2.600 euro, quindi c'è una differenza notevole. Assolutamente. E quindi questo permette di fare delle cose molto belle che magari invece le altre regioni non possono permettersi. Quindi è una questione di disponibilità economiche, ma anche di come le si amministra. Sì, anche come si amministra, perché per esempio la Sicilia ha il doppio delle risorse che ha la Lombardia, ma non passa alla storia per una buona gestione, con tutto rispetto parlando per i siciliani. Quindi sicuramente c'è un'ottima gestione e anche una grandissima attenzione per esempio alla tutela ambientale. Mentre l'Unione Europea si propone di arrivare nel 2020 con almeno il 20% di risorse di fonti di energia ricavata dalle fonti rinnovabili. Bolzano punta ad arrivare al 2020 col 100%, con l'idroelettrico, il solare, l'eolico. Questa è qualità della vita. Certo, infatti tu scrivi: Bolzano è un'Italia altra, distante da Napoli, per esempio, che è l'ultima in classifica peraltro, ma distante anche da Bruxelles. Sì, proprio per questi obiettivi che si pongono, anche una differenza fondamentale, per esempio questa gestione dei rifiuti di cui si parla molto, sia Bolzano ha già risolto il problema da anni, adesso sta costruendo un nuovo un termovalorizzatore, mentre in altre parti come Napoli non si riesce a risolvere questo annoso problema, e anche Trento il 20 dicembre riceverà le offerte per costruire un termovalorizzatore che, oltre a bruciare i rifiuti, permette anche di avere teleriscaldamento e consumi elettrici. Tu Nino sei stato lì per qualche giorno, qual è la sensazione che ne hai ricavato? Cioè la gente ha la percezione di questa fortuna o no? Sì, soprattutto Bolzano c'è un benessere così diffuso che quasi sfiora l'opulenza, è tutto ordinato, tutto bello, tutto lindo. Ovviamente ci sono dei problemi, per esempio tra le due città conta molto la differenza che c'è grazie all'università. A Trento ci sono 20.000 studenti e si vede che è una città giovane, una città dove c'è molto anche dibattito, molta animazione culturale e anche molti negozi fatti per i giovani, negozi etnici, locali così tipici di un'università, mentre invece a Bolzano sono ancora l'università relativamente giovane, da 12 anni, ha solo 3.400 studenti. Loro hanno puntato molto sulla internazionalizzazione, le lezioni si svolgono in tre lingue, italiano, tedesco e inglese, ma devono ancora creare questo legame, questo innesto anche di goliardia, di provocazione, di dibattiti che a Trento c'è. Trento poi può vantare anche un'università con centri di eccellenza per la ricerca e che portano anche del valore aggiunto tecnologico molto alto. Mi ha colpito un altro elemento molto forte, la formazione professionale, parliamo dunque di scuola. Parliamo spesso qui su Radio 24 del problema che in Italia i ragazzi non vogliono più fare le scuole professionali, gli istituti tecnici. Non è un problema di queste zone? Soprattutto di Trento. Trento ha un efficientissimo sistema di formazione professionale che praticamente assicura un lavoro a tutti i giovani che lo frequentano. Difatti disoccupazione è addirittura sotto il livello fisiologico, sotto il 4% di disoccupazione diventa un problema trovare figure professionali adeguate, loro sono al 3%, tant'è che per esempio in molti settori, per esempio in agricoltura o nel turismo, sono costretti a richiedere l'intervento e il lavoro di molti lavoratori, soprattutto dall'est, per le attività più stagionali, classico è la raccolta delle mele oppure la stagione invernale o estiva del turismo. Questo ha il controaltare di questa formazione molto efficiente, formazione professionale molto efficiente. Bolzano è ampiamente sotto la media nazionale dei laureati, proprio perché il lavoro si trova subito, e anche al di sotto della media nell'indice di lettura. A Bolzano si legge poco rispetto a Trento, rispetto alla media nazionale, probabilmente perché questo innesto culturale non si è ancora sviluppato adeguatamente. Certo, quindi ci sono delle ombre pur in queste città dove si vive bene. Grazie mille a Nino Ciravegna, grazie. Grazie, arrivederci. E noi andiamo avanti. Ora, gli operatori turistici temono che proprio a ridosso delle feste di Natale qualcuno possa ripensarci su quella vacanza a Sharm el Sheikh in Egitto. Proprio come nel famosissimo film di Spielberg, solo che purtroppo quanto accaduto a Sharm el Sheikh è cruda realtà. Le spiagge egiziane erano state chiuse ai turisti una settimana fa, quando uno squalo bianco di circa 2,5 metri aveva attaccato prima due donne ucraine e il giorno dopo ferito gravemente una coppia di russi. Catturato l'esemplare, i lidi erano stati riaperti solo sabato scorso, 24 ore prima del nuovo attacco, questa volta mortale. Vittima una 70enne tedesca, in mare nello specchio d'acqua antistante il suo hotel. Spiagge chiuse adesso, a tempo indeterminato, e danni enormi al turismo, con i tour operator italiani che non nascondono la preoccupazione per una meta che in media 300-400.000 nostri connazionali visitano ogni anno. Chi ha già prenotato parte tranquillo, precisano, è stato un atto casuale, come confermano gli esperti. Lo squalo che ha attaccato il Longimanus, quello dalla classica pinna bianca, vive nelle profondità del mare. Potrebbe essere stato richiamato sotto costa o per colpa della pesca illegale che avrebbe rarefatto le sue prede, o perché sono state scaricate in mare carcasse di montoni uccisi in grande quantità per la festa islamica del sacrificio a fine novembre. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italiane alle prese con la scelta dei regali di Natale, un Natale che risentirà ancora della crisi, secondo un sondaggio della Confesercenti. Sentiamo il presidente Marco Venturi. Un sondaggio da cui emerge un atteggiamento di prudenza e di speranza da parte degli italiani. Quindi una situazione un po' di stallo rispetto all'anno scorso, un anno anche quello difficile, diciamo una tendenza analoga, quindi non positiva. Certamente non sono i prezzi che condizionano questa situazione, bensì diciamo la situazione di crisi e di incertezza sul futuro stesso del paese. Quindi questo inducono diciamo a stringere complessivamente. Ecco, l'unico elemento che continua a tenere nonostante la crisi sono i giochi per i bambini. Ecco, i bambini sono quelli che non vengono penalizzati diciamo da questa crisi. Giocattoli tecnologico da cui gli italiani non rinunciano, perché ormai è rientrata diciamo nella normalità del modo di gestire il tempo, ma anche la spesa, e sono gli elementi tecnologici, la chiavetta internet, smartphone, iPhone, e tiene l'alimentare, insomma, ecco, il mangiare. Ed ora il nostro appuntamento con l'Italia che riparte. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 abbiamo avuto un calo di fatturato del 13% rispetto al 2008, nel 2010 invece siamo cresciuti di un 20% e raggiungeremo un fatturato di 96 milioni di euro. Claudio Testa è il direttore marketing della Biraghi di Cavaller Maggiore, provincia di Cuneo. Nata nel 1934, 240 addetti, l'azienda produce formaggio, 1300 forme al giorno di Gran Biraghi e 900 di Gorgonzola. Per uscire dalla crisi Biraghi ha puntato sugli investimenti, come spiega ancora Claudio Testa. Abbiamo investito molto sul prodotto, soprattutto dal punto di vista del packaging e del servizio offerto. Un prodotto di largo consumo come il nostro si trova sugli scaffali della moderna distribuzione in mezzo a tanti altri prodotti della concorrenza. Per emergere e farsi acquistare deve avere una confezione sempre bella ed innovativa. Per questo è necessario investire in nuove linee di produttive. L'averlo fatto nel 2010 ci ha permesso di muoverci al meglio sia all'interno del mercato del grattugiato, un mercato già di per sé in crescita, sia all'interno del mercato dei bocconcini, dove con i biraghini abbiamo raggiunto una quota a volume del 57%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si apre oggi a Milano il nuovo museo del Novecento, esposte oltre 400 opere d'arte del XX secolo. Un ponte dell'Immacolata e di Sant'Ambrogio, questo, quello di quest'anno, illuminato anche dal Festival dei LED, ovvero delle luci accese in molti punti della città. Massimiliano Finazzer Flori, assessore alla cultura di Milano, al microfono di Adriana Fracchia. Un museo del Novecento, 30 milioni di ristrutturazioni e di allestimento, una collezione che vale certamente oltre 500 milioni di euro e soprattutto le due collezioni più importanti dell'identità italiana. Dopo l'arte romana e il Rinascimento, che cosa c'è se non il Novecento con il futurismo e l'avanguardia? Questo museo è la bandiera dunque di un Novecento diverso, insieme a una città che, pensando di illuminarsi in modo diverso, cerca di mettersi in scena, teatralizzandosi. Insomma, è questo un po' il destino. Le città devono diventare dei luoghi di sviluppo, ma anche di piacere, di comunità creativa. Ecco, l'idea di queste installazioni luminose? Di dare dei segni attraverso i quali leggere la vita urbana e di rendere i cittadini i primi turisti della propria città. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.